Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E si torna negli studi di Via Zanardi, continua la prima colazione in diretta oggi martedì 18 aprile, ritorna anche un last minute perché esattamente questa sera fino al 7 maggio Arena del Sole, sala TR Salmon, una continuità, la compagnia Arte e Salute torna a Pasolini portando in scena la tragedia Porcile con la regia di Nanni Garella e le coreografie di Michela Lucenti. Porta in scena Porcile, le date che poi darò nell'indicazione ancora più precisa nel proseguio della diretta per quanto riguarda Arena del Sole, dopo Calderon di Fabio Conderini e Pilade di Giorgina P, Porcile è la terza tragedia del progetto, come devi immaginarvi, dedicato a Pasolini, ideato dal direttore di ERT Walter Malosti e dallo studioso Giovanni Agosti. Quindi ho contattato per questa anticipazione il regista di Arte e Salute Nanni Garella e ne avremo un approfondimento in questo last minute dedicato al teatro. Sentiamo le sue parole. Nanni Garella con la sua compagnia Arte e Salute porta in scena in prima assoluta dal 18 aprile al 7 maggio al Teatro Arena del Sole di Bologna Porcile di Pierpaolo Pasolini. Siamo al telefono con Nanni Garella, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Iniziamo allora questi percorsi di cui ho dato in maniera sintetica una presentazione, ce ne puoi parlare in maniera più approfondita? Allora, l'Arena del Sole quest'anno fanno tutte le tragedie di Pasolini, il programma ambizioso ma molto affascinante. Arte Salute ha già una certa consuetudine con Pasolini perché noi abbiamo realizzato Edipo, Vangelo secondo Matteo, tutte cose tratte da sceneggiature di Pasolini. Questa volta ci confrontiamo con una delle sue tragedie, scritte alla fine degli anni 60. Un brevissimo periodo Pasolini scrisse queste sei tragedie, tutte in versi. Porcile è una tragedia moderna ma antica nello stesso tempo, è scritta in episodi, con un coro, c'è tutto quello che c'è nella, deve essere in una tragedia. E possiamo quindi dire che l'ambientazione moderna ha tutte le caratteristiche e anche la potenza della struttura tragedia, chiamiamola arcaica. Sì, l'ambientazione è nella Germania degli anni 60, fine anni 60, in una villa altoborghese di un grande industriale che ha, come a quei tempi, insomma, alla fine degli anni 60, dei problemi con il figlio. Il rapporto generazionale tra padre e figlio, soprattutto in questo caso, che in quegli anni era in maniera centrale, diciamo, era centrale nella politica, nella cultura di quel periodo, e rapporti generazionali che sono sempre attuali perché in realtà poi li ritroviamo in forme molto diverse anche oggi. Talvez você nem me queira mais. Eu te quero faz tempo. de novo, pede com gosto. Eu não sou de sorte, desculpa se eu não demonstrei. Já sabe que eu tô aqui. Me chama de novo, pede com gosto. Eu não sou de sorte. A Pierpaolo Pasolini, ne abbiamo già parlato con Calderone e anche con altri per quanto riguarda ERT, l'idea con la direzione artistica di Walter Malosti, la continuità che arriva alla compagnia Arte e Salute. Nanni Garella, regista e anche organizzatore per questi percorsi di teatro. Torniamo alla scrittura di Porcile come opera teatrale, composto nel 1966, l'ambientazione è in una tenuta borghese a Godesberg in Germania, nelle vicinanze di Bonn. Il contrasto tra generazioni, e non solo, anche portato da un'epoca molto importante per quanto riguarda una Germania nelle sue contraddizioni, i percorsi storici, la visione pasoliniana e l'importanza di un linguaggio teatrale che, certo, ho parlato in questa parte di intervista di una visione nella scrittura di tragedia per una parte, chiamiamola arcaica, ma indubbiamente con una realtà a tutti i tempi. C'è il dialogo col contemporaneo e non solo, e lo ascolteremo in questa parte di conversazione con Nanni Garella. E troviamo anche punti di incontro tra i protagonisti e Pasolini. Punti di incontro, sì, diciamo che il protagonista assomiglia un po' a Pasolini da giovane, anche io me lo immagino anche fisicamente un po' così nel senso che... E noi abbiamo lavorato molto questa volta sulla fisicità dei corpi in scena, anche perché siccome la tragedia in versi aveva bisogno di avere un lavoro fisico abbastanza importante, e abbiamo lavorato con Balletto Civile, che è una compagnia di danza diretta da Michela Lucenti, che ha fatto un laboratorio con i nostri attori nei mesi di novembre e dicembre, e poi ci ha aiutato a costruire il coro di questa tragedia, perché una tragedia senza coro non esiste. Certo. Quando si trova un bel coro, il 50% di una tragedia è fatto. Sì, e a questo punto, visto che abbiamo parlato di parallelismi di un certo percorso, parliamo anche di novità. E dove troviamo la novità in questa tua versione con Arte e Salute? La novità è proprio quella dell'intervento al lavoro fatto con i danzatori di Balletto Civile, ha una dimensione nuova per i nostri attori, perché il lavoro sul corpo, che è sempre molto importante per un attore, questa volta è stato molto intenso e devo dire con risultati anche per me abbastanza sorprendenti. Ecco, non mi aspettavo dei risultati così buoni anche dal punto di vista tecnico, estetico, e soprattutto allarga i motivi poetici della tragedia, con momenti trasognati, visionari, pieni di luce, pieni di intensità. Poi la difficoltà è stata quella comunque del linguaggio, perché è un linguaggio molto alto, scritto in versi, per cui per i nostri attori non è stato facile. Abbiamo impiegato molto tempo lavorando molto sui personaggi e costruendo bene quelli, cercando poi di... Sì, un lavorone abbastanza lungo, però affascinante, perché credo che sarà una sorpresa anche per chi ci ha visto in altri spettacoli. Sì, e sarà fino al 7 maggio al Teatro Arena del Sole, Porcile di Pierpaolo Pasolini. Grazie Nanni per la tua disponibilità e per grazie questa a voi, presentazione. Grazie a voi. E buona giornata. Ciao. Grazie. Ciao. want me to stay. I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. Come vi ho detto, l'estensione sul palcoscenico in sala Thierry Salmon all'Arena del Sole, curatela di Ert, direzione artistica Walter Malosti, per Porcile la tragedia di Pasolini riportata da Arte Salute con la regia di Nanni Garella, la coreografia di Michela Lucenti, sarà fino al 7 maggio. Abbiamo la rubrica in scena, quindi riporteremo ovviamente questo importante contenuto. Per quanto riguarda il martedì imprevedibile, beh, oggi ve l'ho detto, la Black Music nel mood groove è costantemente protagonista, è l'essenza, è la black exploitation, il groove, il funk. When you're my woman taking up my time. Avremo approfondimenti per quanto riguarda la parte move, quella dedicata al parquet, insieme a Paolo Onofri, dopo la palla 2, con non uno starting five, ma una selezione di atleti che hanno portato dall'Italia agli Stati Uniti questo percorso, se vogliamo anche un pochettino inverso, ma di crescita. Atleti in Italia, dagli USA, dal college, arrivano nel campionato italiano, il ritorno nella NBA da protagonisti. Vedremo appunto questa selezione che, mi permetto di dire, stupisce anche per dei talenti che dall'Italia poi arrivano in formazione titolare nelle franchigie NBA, e sarà tra pochissimo dopo la pubblicità. Lasciamo andare intanto Sly and the Family Stone, If You Want Me to Stay, e come che lo voglio. A tra poco sui 103.1. Over to you now.